Aspettando l'inizio del palinsesto il 28 settembre, continuano a Bologna gli eventi musicali e questa sera al Tutto Molto Bello ci sarà Colombre all'Anagrafe Giovanni Imparato come il mostro marino del racconto di Buzzati, da cui prende il nome, e ad un certo punto affiora dall'acqua pubblicando nel 2017 l'album Pulviscolo, che ha ottenuto attenzione e consensi da pubblico e critica ed è stato candidato nella cinquina del premio Tenco come miglior opera prima. Questa accoglienza ha permesso al cantautore di Senigallia di intraprendere un tour in tutta Italia di più di 90 concerti tra il 2017 e il 2018. Nello stesso 2018 coproduce e arrangia il disco Deluderti della cantautrice Maria Antonietta, con la quale aveva già collaborato nella produzione del suo disco precedente Sassi. A marzo ha pubblicato l'ultimo disco Corallo, ma ci facciamo raccontare tutto da lui, che è in collegamento telefonico con noi nell'attesa di suonare questa sera all'Arena Puccini. Ed è in collegamento telefonico con noi. Ciao Giovanni, è un piacere averti i nostri microfoni. Ti chiedo come stai e come hai passato quest'estate. Ciao Lucri, ciao a tutti. Beh, sto bene, sto in piedi, sono abbastanza in forma e quest'estate l'ho passata un po' a casa, ma un po' soprattutto riuscendo a portare in giro un po' quello che è il mio nuovo disco in questa formula un po' speciale con gli archi, quindi ci sono stati un po' di concerti, soprattutto ad agosto e a settembre, quindi dai, comunque qualcosa si muove e dobbiamo farla muovere. E a proposito di qualcosa si muove, infatti tu questa sera sarai al Tutto Molto Bello e proporrai il tuo ultimo disco, che è Corallo, uscito a marzo per Bomba Dischi, e insomma porterai anche le tue precedenti canzoni. Come stavi dicendo anche tu, è un trio tentacolare perché sarai accompagnato da violino e da violoncello. Sì, esatto, è proprio così. Ho pensato che dal momento che è stato tutto interrotto, il mio disco è uscito proprio nel momento in cui siamo stati tutti chiusi in casa, e ho pensato che nel momento in cui insomma anche le prove con la band si erano dovute per forza fermare, ho pensato di presentare così questa versione molto speciale con appunto il violino e il violoncello, con Fausto Cigarini e Daniele Rossi che mi accompagnano, e quindi sì, sono le canzoni del nuovo disco, tutte un po' riarrangiate, e anche quelle del disco prima di Pulviscolo, e quindi insomma sono molto contento. Abbiamo fatto questa prova, sai, le cose a giugno, luglio si muovevano in maniera molto veloci, no? Quindi era impossibile andare in band, e non avevo diciamo voglia di andare da solo, perché l'avevo già fatto e non mi sarei messo troppo in gioco. Quindi ho fatto una prova con i ragazzi, che sono degli strumentisti, dei musicisti fantastici, e le cose insomma hanno girato subito bene, quindi ho detto ok, questo spettacolo può essere degno di essere messo su un palco. Quindi da lì insomma si sono aperte un po' di cose, e quindi arriverò stasera a Bologna, insomma è un concerto a cui tengo molto, insomma, quindi sono molto contento. E hai un rapporto particolare con la città di Bologna? Beh sì, alla fine dai, ho tanti amici là, e poi comunque ho anche tipo studiato, quindi è lì a Bologna, quindi comunque dai, mi è sento un po' a casa, sì, dai, sì. Tra l'altro Corallo rappresenta l'immergersi in un mondo sottomarino, quello dove vive il corallo e che possiamo percepire come il nostro mondo interiore e sotterraneo. Ho letto che hai dichiarato che tu lo associ proprio ai rapporti interpersonali che crescono e si sviluppano con lentezza, insomma, che sono misteriosi da comprendere e da trovare. È un messaggio molto bello da trasmettere a chi ti ascolta. Ascolta. Beh, grazie, sì, tendenzialmente è proprio così, cioè nel senso le cose parlano di me, insomma delle cose che mi succedono insomma insieme alle persone che ho intorno, tendenzialmente, quindi sì, è qualcosa, no, che hai anche paura di toccare, perché comunque sai, nel momento in cui tocchi determinate corde, quindi magari questi coralli molto nascosti che sono le relazioni che tu hai con gli altri, fa anche male, no? Potrebbe anche nuocere al corallo stesso. Però è importante farlo, quindi ho pensato appunto di mettere la maschera e andare sotto l'acqua questa volta e andare a scoprire ancora insomma delle cose magari un po' più nascoste, che magari hai paura di dire, ma che vanno comunque dette perché sono troppo importanti. Ecco, questo era un po' il senso del disco, quindi se ti è arrivato sono contento. Ma anche perché questo disco è uscito a 3 anni di distanza, come hai citato te poco fa, da Pulviscolo. Che Colombre è? A distanza di 3 anni. Ma è sempre lo stesso Giovanni possibile, nel senso mettendo tutto quello che c'è da dire e scartando il superfluo. Poi ovviamente io sono abbastanza fan della lentezza nelle cose, perché nel momento in cui comunque fai un disco, cioè sei in un certo qual modo, giochi ad un campionato che è quello della musica, che va trattato con molto rispetto, no? E quindi insomma devi essere davvero molto molto molto, molto convinto delle cose che fai, perché comunque vai a trattare qualcosa di arte, di artistico, qualcosa di preziosissimo, no? Come la musica. Quindi poi sono un po' maniacale, quindi sto lì, capito? Cerco di trovare insomma tutte le formule che per me insomma sono giuste. Poi comunque sai, scrivere, arrangiare, fare un po' tutto da solo insomma è anche lungo come processo. Però mi piace molto anche la dignità, no? Che tu cerco di mettere quando scrivo una canzone, nel senso che cioè, a volte scrivi delle cose che poi non hanno la dignità di finire un disco, invece la lentezza ti permette di aspettare, di coltivarle, di farle crescere per poi alla fine catturarle e appunto registrare un disco con le canzoni scelte. Quindi sono molto fan della lentezza, però una lentezza non svogliata ma comunque attenta, no? Fa percepire comunque le cose che succedono e di avere magari la fortuna di catturarle nell'aria e scriverci una canzone. Anche perché tu nel frattempo, mentre ti prendevi questa tua lentezza che approvo in pieno, soprattutto se esce un album come Corallo, hai lavorato alla produzione anche di Deluderti di Maria Antonietta e sei diventato chitarrista di Calcutta nel tour di Evergreen. Sì, esatto, vedi, questa lentezza poi in realtà non è mai lentezza, no? Nel senso comunque poi le cose accadono, succedono e comunque ti danno nuovi stimoli, ti danno, quindi in un certo qual modo il Giovanni è per forza cambiato rispetto a Pulviscolo, questo è logico, è scontato, e perché sono successe insomma in questi ultimi comunque 2 anni delle cose molto importanti. Innanzitutto vabbè, cioè sì, partecipare insomma alla produzione, all'arrangiamento del disco di Maria Antonietta Deluderti è stata una cosa che no, cioè ti fa imparare tantissimo, nel senso che comunque sei con la tua compagna, quindi sono operazioni molto delicate, no? Però servono ad andare proprio anche ancora di più in profondità nel rapporto. Certo. Invece con Calcutta ugualmente, cioè mi sono trovato a suonare nella band perché Edoardo mi ha chiamato e anche lì insomma è stata un'esperienza molto importante, stupenda. Alla fine comunque ti ritrovi a suonare in dei palchi giganteschi con 11 persone sul palco e quindi no, impari a fare il cross perfetto quando è il momento giusto e a seguire bene lo schema di un concerto comunque molto grande, molto organizzato, quindi con una macchina abbastanza complessa anche dietro. Quindi insomma è stata un'esperienza bellissima a livello umano, ma anche più molto importante a livello proprio di professionalità, se così vogliamo parlare. E ci puoi già dire se, non so, hai altri progetti da produttore, ti piacerebbe continuare anche su questa scia? Ma guarda, queste cose alla fine l'ho sempre un po' affrontate. Adesso devo dirti che c'è una cosa che bolle in pentola, ma non posso parlartene. Ok. Però tornerai allora a raccontarcela appena si potrà dire. Sì, quello sicuramente. E poi alla fine, cioè, comunque seguire le canzoni di altri è anche interessante. Prima di tutto perché capisci anche, no, i segreti, se vuoi, degli altri. Nello scrivere, nel comporre, eccetera, eccetera, e ne rimani stupefatto, no? Soprattutto quando hai a che fare con della musica molto, molto bella, molto qualità. Ed è una cosa che comunque poi mi piace, no? Aggiungere magari l'orecchio esterno su una cosa o magari un punto di vista che magari poi può aiutare la canzone. Tra pochissimo, tra l'altro, ci ascoltiamo qui sui 103.1 Arcobaleno, che devo dire, ascoltandomi tutto il tuo album Corallo, l'ho scelta da trasmettere oggi ed è un brano che parla appunto di un arcobaleno che si innalza nel cielo dopo la fine di un temporale. Siamo in un periodo in cui insomma speriamo arrivi presto alla fine di un temporale. Cosa rappresenta per te questo brano? Ma sì, Arcobaleno parla di sempre di un rapporto che può avere insomma dei sobbalzi, può fare dei giri di giostra strani, nel senso che magari a volte prende delle pieghe che non avresti voluto e magari le cose vanno a finire anche un po' male. Però mi piaceva comunque focalizzare, diciamo, il messaggio, insomma, delle parole sul fatto che comunque le cose che hai passato insieme comunque restano, nonostante poi ci sia stata di mezzo una tempesta. Quindi, diciamo, è sempre qualcosa legato comunque alla speranza che poi in realtà, e alla sicurezza se vuoi, alla consapevolezza, ecco, che le cose che hai passato con una persona comunque nonostante la burrasca siano comunque lì ferme, e quelle positive ovviamente, e nessuno alla fine te le può togliere. Mi trovi pienamente d'accordo ed è un bellissimo messaggio per chiudere questa nostra bellissima chiacchierata, dove io ti ringrazio e rinnovo però l'invito a vederci questa sera, i nostri ascoltatori e ascoltatrici, al tutto molto bello all'Arena Puccini. Ci sono ancora dei biglietti disponibili, quindi ai nostri ascoltatori rinnoviamo l'invito a esserci questa sera e insomma portare avanti anche la musica che finalmente è tornata. Perfetto, grazie. Grazie mille, un abbraccio, ciao. Ciao, a presto. Dentro la bocca hai il veleno, un arcobaleno oscurità. Dentro una fossa non ti ci vedo, ti auguro il meglio per il tempo che avrai. Io non ti riconosco, non ci riesco e te lo confesso, non sei più lo stesso. Hai il veleno, un arcobaleno.